passare quei momenti con le membra indolenzite, farsi male uscendo dalle lenzuole, sorreggere vassoi di parole troppo pesanti per le nostre teste sfitte dai buoni sentimenti, intrappolare studenti in mini locali sotto scala, arredati. Interrogarsi sotto i cieli autunnali, grigiore dei palazzi visitati, con gli sguardi sui pavimenti, scappare coi nostri silenzi insieme alla sera, aspettando un tram. Sfogliando carta da giornale, farsi male sulle notizie dello sport. Sfogliando carta da giornale, farsi male sulle righe dell'oroscopo. E tu con i tuoi seni alla finestra, i piedi scalzi per gustarsi la cena, davanti a schermi e monumenti di vergini nude, sorridevi immobile. Coi dolori mestruali per un'ostinata emancipazione, con i nostri finti problemi l'Africa muore, con i finti problemi il primo mondo muore. E ti ripetevi di cacciare i mostri sotto i letti, mordendoti le labbra e tutti i nostri affetti, alzando le mani al cielo per raccogliere da fumare dagli sconosciuti. Ingabbiati nei turbini, negli inceneritori, nelle vie degli ambulanti si vende la gioia. Il fumo troppo pesante per i nostri polmoni, per via degli ambulanti si vende la gioia. Nelle vie dei tunisini si vende la gioia, nelle vie dei marocchini si vende la gioia, nelle vie dei italiani si vende la gioia, nelle vie degli italiani si vende la gioia. E ti ripetevi di cacciare i mostri sotto i letti, ti ripetevi di vivere più di 100 anni, ti ripetevi di avere ancora fame e di voler comprare un cane solo per insegnargli a volare. Volevi sposare il mare, volevi sposare il mare.